Starete bene, signora, quando un giorno lontano, vicino, e dipende da voi che sia oggi stesso, capirete di non avere niente, riprenderete la vostra vita normale. Ma avete detto che non mangiate, che non uscite. Ma, signore, ho un po' di febbre. Le toccò la mano. Non in questo momento, comunque. E poi, che bella scusa. Non sapete che lasciamo all'aria aperta e sovralimentiamo dei tubercolotici con la febbre fino a 39? Ho anche un po' di albumina. Non dovreste saperlo. Avete quella che ho descritto come albumina mentale. Abbiamo avuto tutti, durante un'indisposizione, la nostra piccola crisi d'albumina, che il nostro medico si è affrettato a perpetuare rendendocene dotti. Per un'affezione che i medici debellano con dei farmaci, c'è chi assicura almeno che qualche volta è successo, ne provocano 10 in soggetti sani, inoculando loro quell'agente patogeno, 1000 volte più virulento di tutti i microbi, che è l'idea di essere malati. Una simile suggestione, al cui potere non può sottrarsi nessun temperamento, agisce con particolare efficacia negli individui nervosi. Diteli che alle loro spalle c'è una finestra aperta e cominceranno a starnutire. Fategli credere che avete messo della magnesia nella loro minestra e saranno assaliti da una colica, che il loro caffè era più forte del solito e non chiuderanno occhio per tutta la notte. Pensate, signora, che non mi sia bastato guardarvi negli occhi, sentire il modo in cui vi esprimete, ma che dico? Vedere vostra figlia e vostro nipote che vi assomiglia tanto per capire con chi avevo a che fare? La nonna potrebbe forse andare a sedersi, se il dottore è d'accordo, in un viale tranquillo dei Champs-Élysées, vicino a quel boschetto d'alloro davanti al quale una volta andavi a giocare. Mi disse mia madre, consultando così indirettamente Du Boulbon, con una voce nella quale si insinuò, per questo, una nota di timida deferenza che non ci sarebbe stata se si fosse rivolta a me solo. Il dottore si voltò verso la nonna e, poiché non era meno letterato che scienziato, «Andate ai Champs-Élysées, signora, vicino al boschetto d'alloro che piace a vostro nipote. Vi sarà salutare. L'alloro purifica». Dopo aver ucciso il serpente Pitone e con un ramo di lauro in mano che Apollo fece il suo ingresso a Delfi, voleva in tal modo preservarsi dai germi mortali di quella bestia velenosa. Vedete dunque che l'alloro è il più antico, il più venerabile e vorrei aggiungere la cosa è tutt'altro che irrilevante, sia in campo terapeutico che in campo profilattico, il più bello degli antisettici. Dato che gran parte di ciò che sanno l'hanno imparato dai malati, i medici sono facilmente inclini a credere che questo sapere dei pazienti sia in tutti il medesimo e si illudono di poter sbalordire quello al cui capezzale si trovano con qualche osservazione presa a prestito dai malati curati in precedenza. Fu dunque col sorrisetto arguto di un parigino che, introducendo un termine di patois, presume di lasciare a bocca aperta il contadino con cui sta conversando, che il dottor Du Boulbon disse a mia nonna «Probabilmente un tempo ventoso riesce a farvi dormire assai meglio dei più potenti ipnotici». «Al contrario, signore, il vento mi impedisce del tutto di dormire». «Ma i medici sono suscettibili». «Ah!» mormorò Du Boulbon aggrottando le sopracciglia come se gli avessero pestato un piede e le insonnie della nonna, durante le notti tempestose, costituissero per lui un'offesa personale. Tuttavia, sostanzialmente privo di amor proprio e convinto com'era, in quanto mente superiore, di non dover prestare troppa fede alla medicina, riacquistò ben presto la sua filosofica serenità. Mia madre, per desiderio appassionato d'essere rassicurata dall'amico di Bergotte, intervenne a sostegno della sua tesi, aggiungendo che una prima cugina della nonna, in preda a un'affezione nervosa, era rimasta confinata per 7 anni nella sua camera da letto di Combray, alzandosi appena 1 o 2 volte alla settimana. «Vedete, signora? Non lo sapevo, eppure avrei potuto dirvelo io stesso». «Ma, signore, Non sono certo come lei, anzi, il mio medico non riesce a farmi stare a letto, ribatté la nonna, un po' indispettita forse dalle teorie del dottore, o forse ansiosa di sottoporgli tutte le possibili obiezioni nella speranza che egli potesse confutarle e lei, quando se ne fosse andato, venisse a trovarsi affrancata da ogni dubbio circa la sua fausta diagnosi. Ma è naturale, signora, non si possono avere, perdonatemi il termine, tutte le insanie. Voi ne avete altre, non quella. Ieri ho visitato una casa di cura per nevrastenici. In giardino un uomo se ne stava in piedi su una panchina, immobile come un fachiro, col collo piegato in una posizione che doveva essere assai disagevole. Quando gli chiesi cosa stesse facendo, mi rispose, senza fare alcun movimento né girare la testa: «Dottore, vado soggetto a reumatismi e freddature. Ho appena fatto del moto in quantità eccessiva e mentre stupidamente prendevo tutto quel caldo, tenevo il collo a contatto con la flanella che ho indosso. Se adesso eliminassi quel contatto, senza aver prima lasciato svanire il calore, sono sicuro che mi prenderei un torcicollo, se non una bronchite». E, in effetti, se li sarebbe presi. «Siete un bel nevrastenico, ecco cosa siete», gli dissi. «Sapete quale argomento addusse per provarmi che non lo era? Mi disse che, mentre tutti i ricoverati della clinica avevano la mania di controllare il proprio peso, tanto che si era dovuto mettere un lucchetto alla bilancia per evitare che passassero tutto il giorno a pesarsi, lui, invece, ne aveva così poca voglia che dovevano costringerlo a salirci. Si gloriava di non avere la mania degli altri, senza considerare che anche lui aveva la sua e che era questa preservarlo dalle altre. Non sentitevi offesa dal paragone, signora, perché quel tipo che non osava girare il collo per paura di ammalarsi è il più grande poeta del nostro tempo. Quel povero maniaco è l'uomo più intelligente che io conosca. Sopportate che vi si definisca nervosa. Appartenete a questa magnifica e compassionevole famiglia che è il sale della terra. Tutto quanto conosciamo di grande sono i nervosi a donarcelo. Loro, e non altri, hanno fondato le religioni e composto i capolavori. Il mondo non saprà mai tutto ciò che deve loro e soprattutto quanto essi hanno sofferto per darglielo. Gustiamo le incantevoli musiche, i bei quadri, mille cose raffinate, ma ignoriamo quanto siano costate ai loro creatori in termini di insonnia, pianto, riso convulso, orticarie, asma, epilessia o di un'angoscia di morire che è peggio di tutto questo e che forse, aggiunse dedicando un sorriso alla nonna, non vi è del tutto estranea, visto che al momento del mio arrivo non eravate, confessatelo, molto tranquilla. Voi, signora, vi credevate malata, gravemente malata, forse. Dio sa di quale affezione credevate di scoprirvi i sintomi. Non vi sbagliavate, li avevate davvero. Il nervosismo è un imitatore geniale. Non c'è malattia che non sappia contraffare a meraviglia. Riproduce perfettamente la dilatazione nei dispettici, le nausee della gravidanza, l'aritmia del cardiopatico, lo stato febbrile del tubercoloso. Se cade nel tranello il medico, come potrebbe non caderci il malato? Non pensate che io sorrida dei vostri mali. Non mi prenderei la responsabilità di curarli se non li comprendessi. Del resto, non c'è buona confessione che non sia reciproca. Ecco qua. Vi ho detto che senza malattia nervosa non c'è grande artista? Ebbene, e alzò gravemente l'indice, non c'è nemmeno grande scienziato. Aggiungerò che se non si affetti a propria volta da qualche malattia nervosa, non si può essere, non fatemi dire un buon medico, ma semplicemente un accettabile medico di malattie nervose. Nel campo della patologia nervosa, un medico che non dica troppe sciocchezze è un malato guarito a metà, così come un critico è un poeta che non scrive più versi e un poliziotto è un ladro che ha smesso di esercitare. Io, signora, non mi credo albuminurico come voi. Non soffro di rifiuto nervoso del cibo o dell'aria, ma non riesco ad addormentarmi prima di essermi alzato più di 20 volte per controllare se la porta è chiusa. E in quella casa di cura dove ieri ho incontrato un poeta che non muoveva il collo, c'ero andato per fissare una camera perché, resti fra noi, passo le mie vacanze a curarmi ogni volta che la stanchezza di curare i mali altrui finisce con l'aggravare i miei. E dovrei fare anch'io una cura del genere? Chiese spaventata la nonna. Non ce n'è bisogno, signora. Le manifestazioni di cui soffrite svaniranno alle mie parole. E poi, accanto a voi c'è qualcuno che è dotato di un grande potere e che io ormai ho trasformato nel vostro medico. È il vostro stesso male, la vostra iperattività nervosa. Sapessi come guarirvene, mi guarderei bene dal farlo. Mi basta impartirgli degli ordini. Vedo sul vostro tavolo un libro di Bergotte. Guarita dal vostro nervosismo, non l'amereste più. Ebbene, come potrei arrogarmi il diritto di scambiare le gioie che vi procura Bergotte con un'integrità nervosa assolutamente inadeguata a darvene di uguali? Ma proprio quelle gioie sono un rimedio potente, il più potente di tutti, forse. No, non ho nulla contro la vostra energia nervosa. Le chiedo solo di ascoltarmi. Vi affido ad essa. Deve fare macchina indietro. La forza che usava nell'impedirvi d'andare a passeggio, di nutrirvi a sufficienza, l'impiegherà per farvi mangiare, per farvi leggere, per farvi uscire, per procurarvi ogni possibile distrazione. Non ditemi che siete stanca. La stanchezza è l'attuazione organica di un'idea preconcetta. Cominciate con l'escluderla dal vostro pensiero. E se mai doveste avere una piccola indisposizione, cosa che può succedere a chiunque, sarà come se non l'aveste, giacché i vostri nervi faranno di voi, secondo un'acuta definizione del signor di Talleyrand, un guarito immaginario. Ecco, hanno già cominciato ad agire. Ascoltandomi, non vi siete accasciata una sola volta. Avete buona cera, occhio vivace, è già passata mezz'ora d'orologio e non ve ne siete accorta. I miei omaggi, signora.